Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un libro che ha suscitato molte polemiche nelle settimane scorse e che affronta un tema che continua a lacerare il dibattito politico italiano e in particolare il mondo della sinistra. Il libro è quello di Alessandro Orsini, che è docente all'Università di Roma Tor Vergata e all'Università LUISS di Roma sempre. Il libro si intitola Gramsci e Turati, le due sinistre, pubblicato da Rubbettino, 148 pagine, 12 euro. Le due storiche figure, padre uno della tradizione laburista italiana, l'altro di quella comunista, sono qui messe a confronto per far emergere le differenze profonde che ci sono tra le due anime della sinistra che appunto Gramsci e Turati incarnano. Per farla breve c'è un'utile tabella che mette a confronto le posizioni e le differenze tra i due uomini politici e così leggiamo sotto Gramsci chiusura preventiva alle idee dell'altro e sotto Turati educazione al dialogo, Gramsci disprezzo degli avversari, l'altro rispetto degli avversari, elogio dell'insulto, condanna dell'insulto, celebrazione della violenza, rifiuto della violenza, intolleranza, tolleranza, attacco personale, rifiuto dell'attacco personale. Principio di autorità, libertà di critica, sottomissione all'ortodossia di partito, diritto all'eresia per Turati, culto di Lenin, rifiuto della cultura leninista, dittatura del partito unico, pluralismo dei partiti. Come vedete, posizioni in certi punti davvero inconciliabili. E l'analisi di Orsini è condotta sugli scritti dei due politici e pensatori, così da risultare particolarmente documentata. Eppure, nonostante questo, le polemiche, come vi dicevo, sono state molto forti. C'è stato un contributo a favore di Orsini, quello di Roberto Saviano, ma poi tantissime critiche, spesso anche condite da grossi insulti, da parte di tanti esponenti della sinistra. E allora parliamo di questo libro con il suo autore. Buongiorno ad Alessandro Orsini. Buongiorno e grazie di questo invito così gradito. Allora, Alessandro Orsini, perché ha scritto questo libro su Gramsci e Turati? C'era bisogno di andare a scavare ancora sulla storia di questi due personaggi tanto nobili, ma ormai anche così facenti parte del pantheon delle glorie nazionali? Qual è il motivo che l'ha spinta a mettere in luce le divaricazioni tra questi due grandi personaggi? Diciamo, la ragione principale è che a mio giudizio esiste un profondo disorientamento, anche una grande confusione a sinistra su che cosa significa essere di sinistra. Per tutta una serie di ragioni storiche e politiche noi abbiamo un'area riformista che non ha però una chiara cultura di riferimento. In Italia oggi il riformismo è soprattutto una tecnica di governo e invece Turati ci insegna che il riformismo è, prima di essere una tecnica di governo, una cultura politica che si fonda su dei valori molto precisi e anche profondi. Secondo me quindi una riflessione su Gramsci e Turati è più che mai attuale oggi nel 2012, perché proprio ricostruendo il profilo pedagogico di questi due importantissimi personaggi della storia della sinistra che noi forse possiamo affrontare questo tema. Roberto Saviano ha avuto il coraggio di centrare nella sua recensione per Repubblica, cioè che cosa significa essere di sinistra. Ecco, Roberto Saviani è stato uno suo sostenitore, viceversa si sono addensate molte critiche sul suo libro da parte di storici paludati. Mi viene quasi sospetto di pensare che proprio quel tratto di intolleranza che lei sottolinea facente parte di un certo tipo di sinistra sia ancora molto radicato nel nostro paese. Guardi, da quando è uscita la recensione di Roberto Saviano per Repubblica non c'è stato un solo giorno in cui io non abbia ricevuto degli attacchi, in alcuni casi anche volgari, e soprattutto attacchi che non hanno nulla a che vedere con il contenuto del mio libro. Sono stato sottoposto a un fuoco di censura, addirittura c'è stato uno studioso, un gramsciano, che è intervenuto con una lettera pubblica apparsa sul sito della Fondazione Nenni, in cui dice che io sono un uomo le cui tesi suscitano orrore e raccapriccio. E il fatto che nel 2012 siamo ancora a questo punto però conferma l'esigenza, l'importanza e l'urgenza di una riflessione su che cosa significa essere di sinistra, perché esiste una sinistra che è profondamente intollerante, che non rispetta la diversità delle opinioni e delle idee, che si sottrae al libero confronto attraverso la denigrazione, ed esiste invece un'altra sinistra che è quella di Turati, che si basa invece sul diritto all'eresia, sul rispetto degli avversari politici, sull'apertura al dialogo e sul rifiuto dell'insulto, della denigrazione e dell'attacco personale. Ecco, Turati uguale tolleranza uguale riformismo, Gramsci uguale intolleranza uguale dunque non riformismo. È il riformismo la chiave di volta della differenza tra le due anime della sinistra? E come si fa oggi a non essere riformisti? Ma essere riformisti oggi è molto difficile, a mio giudizio in Italia noi non abbiamo un grande, un vero partito riformista, per questo a mio giudizio è importante riflettere sulla lezione di Turati. Devo però precisare che Gramsci e Turati, questo mio libro, non è un libro sul pensiero politico di Antonio Gramsci. Io ho sempre riconosciuto il valore di Antonio Gramsci come pensatore politico. È un libro che pone a confronto la figura pedagogica di Antonio Gramsci e la figura pedagogica di Filippo Turati. Antonio Gramsci era un uomo che testualmente invitava i giovani militanti di partito a definire porci, putitori di cessi, stracci di sangue mestuato, scatarri di avversari politici. Così testualmente si esprimeva Gramsci, e rivolgendosi ai giovani di partito diceva: voi dovete imparare questo linguaggio. Così testualmente diceva che gli avversari politici sono porci e non bisogna vergognarsi, né bisogna avere paura di chiamare porci gli avversari politici. E in quegli stessi anni, in presenza dello stesso contesto politico, Turati conduceva una fermissima battaglia in favore della pedagogia della tolleranza contro Gramsci, per costruire una sinistra diversa fondata sul diritto all'eresia e sul rispetto degli avversari politici. Proprio in queste ore, sulla Stampa di qualche giorno fa, è apparso l'articolo di un studioso il quale ha affermato che nel mio libro io non avrei tenuto nel dovuto conto il contesto in cui Gramsci invitava a utilizzare queste espressioni così violente e così volgari. Ma il contesto in cui agirono Gramsci e Turati era esattamente lo stesso. Questo perché non esiste un rapporto meccanico tra quello che accade nel mondo che ci circonda e i nostri comportamenti. Quello che noi facciamo in base al contesto è sempre mediato dai nostri valori politici. Gramsci e Turati avevano due progetti pedagogici opposti, avevano due culture politiche che erano in conflitto, in contrasto su tutti i punti, ma questo è lo stesso Gramsci a scriverlo. Gramsci definiva Turati un semifascista, lo considerava un traditore del proletariato. Se lei legge il commento che scrisse Palmiro Togliatti nel giorno della morte di Filippo Turati morì in esilio, in condizioni di estrema povertà, era un antifascista, e Togliatti scrisse che Filippo Turati era il più spregevole uomo della storia della sinistra, un uomo di cui bisognava vergognarsi, un corrotto, un truffatore, un disonesto, un ignorante. Ecco, questo disprezzo nei confronti del riformismo esiste ancora oggi e noi dovremmo avere il coraggio di fare i conti con questa storia, perché confrontarsi con il passato e cercare di stabilire una verità fondata sui documenti significa, a mio giudizio, affrontare i problemi del presente. E la sinistra oggi in Italia ha dei grossi problemi, ha una difficoltà ad elaborare un progetto politico di lungo periodo, perché non ha una cultura politica di riferimento forte. A proposito di Turati, lei ricorda il parallelo, diciamo, con l'esperienza di Giovanni Giolitti. Ecco, se quell'incontro avesse avuto luogo in maniera più consistente, la storia d'Italia avrebbe avuto un corso diverso? Guardi, probabilmente sì. Filippo Turati disse una cosa, a mio giudizio, molto interessante. Dopo che Mussolini giunse al potere, in molti criticarono la scissione di Livorno e dissero: per colpa di quell'azione, nel momento in cui la sinistra doveva rimanere più forte, più unita, Mussolini ha potuto arrivare al potere. Invece Turati fece una riflessione diversa e disse: purtroppo la scissione di Livorno avvenne soltanto nel 1921, perché se noi ci fossimo separati prima dai comunisti, probabilmente i riformisti italiani avrebbero avuto la possibilità, partecipando al governo, di schiacciare il fascismo quando muoveva i primi passi. Quindi Turati, in questa sua affermazione, capovolse il punto di vista che ancora oggi è dominante, no? Il punto di vista secondo cui quella scissione di Livorno avrebbe indebolito la sinistra, le forze democratiche, fermo restando che nella sinistra, come noi sappiamo, c'erano anche delle forze profondamente intolleranti, antidemocratiche, con una forte vocazione totalitaria. Però Turati, appunto, capovolse questo punto di vista. No, disse, magari la scissione di Livorno fosse avvenuta prima, avremmo avuto le mani libere per poter fare una politica riformista, che nella prospettiva di Turati era una prospettiva che si basava sulla partecipazione al governo nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse del proletariato. Grazie ad Alessandro Orsini, autore di Gramsci e Turati, le due sinistre. Buona domenica. Ultimi arrivi. Vi segnalo tre libri di genere diverso. Il primo è di Edoardo Boncinelli, La scienza non ha bisogno di Dio, è pubblicato da Rizzoli, 170 pagine, 18 euro. Boncinelli è un noto scienziato che nel libro non vuole escludere l'esistenza di Dio, ma vuole presentare la realtà della vita e dell'universo a prescindere dalla presenza di Dio. E questa è una presentazione molto chiara degli ultimi sviluppi nel campo della biologia molecolare, dalle origini della teoria di Darwin fino ad oggi. Poi vi segnalo una storia vera e appassionante, quella narrata da Moreno Gentili in Milano 1944, Un amore, pubblicato da Schirà, 224 pagine, 14 euro, un libro che reinterpreta fatti realmente accaduti relativi alla storia di due coniugi e delle loro traversie durante la Repubblica di Salò, quando furono arrestati per aver aiutato nella fuga alcuni ebrei. E la storia riguarda proprio le vicende dell'intera famiglia mobilitatasi per liberare i due coniugi. E infine agli ambientalisti segnalo di Ermete Realacci, ambientalista storico, già presidente di Lega Ambiente, il libro Green Italy, perché ce la possiamo fare, pubblicato da Chiare Lettere, 318 pagine, 15 euro. Questa è una ricetta contro la crisi, scritta, come spiega Ivan Lobello nella sua prefazione, per far crescere l'Italia dell'innovazione, della scommessa verde, della internazionalità, della solidarietà e della lotta alla mafia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vediamo adesso una serie di libri che ci fanno conoscere meglio attraverso la storia, la lingua e la poesia il nostro paese. Cominciamo da Venezia con un libro di storia di uno studioso che insegna a Londra, Filippo De Vivo, che ha pubblicato con Feltrinelli Patrizi, informatori, barbieri, politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna, 468 pagine, 35 euro. Il tema affrontato è un tema affascinante, quello della guerra delle parole, ossia delle opinioni, che, come diceva Paolo Sarpi, possono essere considerate con leggerezza, ma che alla fine determinano i conflitti più accesi e a un certo punto anche le guerre. Ne seppe qualcosa proprio Venezia. Nel 1606 Paolo V scomunicò il Doge e il Senato per dissidi relativi a questioni che oggi chiameremmo di rapporti tra Stato e Chiesa e lanciò, anzi come si diceva allora, fulminò l'interdetto, nel senso che vennero sospesi tutti i sacramenti e quindi non ci si poteva praticamente neanche sposare o essere battezzati, una vera sciagura che coinvolgeva tutta la popolazione. Seguì a quella decisione una produzione di libelli politici quasi sterminata, naturalmente pro e contro, con forti tentativi anche del governo di Venezia di censurare le ragioni opposte. Insomma, fu un clamoroso caso di conflitto di opinioni favorito dalla relativa libertà di stampa che allora esisteva a Venezia. E allora il libro esplora non un fatto remoto, ma una straordinaria esperienza di comunicazione politica che fece di Venezia, in quel caso, un caso veramente unico. Ma cosa c'entrano i barbieri? C'entrano perché, come spiega l'autore, tra i centri della circolazione delle idee e delle informazioni politiche erano particolarmente note le botteghe dei barbieri e degli speziali che in maniera diversa partecipavano alla variegata industria medica della prima età moderna, tanto che questa abitudine veniva aspramente criticata e c'era stato un patrizio che nel 1621 aveva lamentato che perfino i barbieri discutevano di ragion di Stato nelle botteghe e nei ritrovi loro, quello che oggi chiamiamo il bar sport. Restiamo in ambito della Repubblica Veneta con i racconti di Cristiano Caracci, un professionista, un avvocato col gusto della narrativa che ha pubblicato Levante Veneto, SBO Edizioni, 200 pagine, 15 euro. Questa è una serie di racconti imperniati sullo scontro tra mondo cristiano e mondo islamico dal XIII secolo, nel quale è ambientato il primo racconto, Tempi lontani, fino alla campagna dei Dardanelli. E intorno a questo leitmotiv l'autore mostra la sua bravura nel ricostruire periodi storici diversissimi, restituire vita a figure storiche magari dimenticate e descrivere ambienti mediterranei molto diversi fra di loro. Parliamo adesso di lingua, con due libri dedicati alla storia linguistica di Napoli e di Torino. Il primo è di Nicola De Blasi, un docente universitario a Napoli, il secondo di Claudio Marazzini, che invece insegna all'Università del Piemonte Orientale. Entrambi sono pubblicati da Carocci, costano 16 euro ciascuno e hanno lo stesso numero di pagine, 180. Questa di Carocci è una serie interessante che continua appunto con queste due tappe dopo quelle dedicate a Venezia, Roma e Milano e permette di cogliere l'evoluzione della lingua parlata nelle varie parti d'Italia mettendoli in collegamento con le vicende storiche, in questo caso appunto di Napoli e di Torino. Perciò, nota De Blasi, la protagonista del suo racconto è Napoli con il suo ruolo di metropoli, il suo tessuto urbano, la sua realtà linguistica. La città è lo spazio concreto in cui nella storia diverse lingue, italiano, latino, napoletano, catalano, francese, spagnolo, sono state adottate dai parlanti come strumenti della comunicazione quotidiana nei vari usi ufficiali e culturali. Mentre Marazzini, a proposito del Piemonte, ricorda che all'interno del Piemonte attuale è facile riconoscere una serie di sottoaree, le quali rivelano una loro specifica caratterizzazione che discende dalle loro particolari vicende storiche, con un parziale riscontro anche nei fattori linguistici. Le tre aree sono lo Stato Sabaudo, il Marchesato del Monferrato e il Marchesato di Saluzzo. A proposito dei linguaggi locali, in questo caso forse sarebbe riduttivo parlare di dialetto, vi segnalo un classico della letteratura romanesca, e cioè di Giuseppe Gioacchino Belli, il poeta vissuto tra il 1791 e il 1863, il grande cantore dell'ultima Roma papale, i sonetti erotici e meditativi pubblicati da Adelphi a cura di Pietro Gibellini, 358 pagine, 18 euro. I testi sono molto espliciti, del resto lo aveva spiegato lo stesso Belli. «Non casta, non pia talvolta, sebbene devota e superstiziosa, apparirà la materia e la forma», scriveva il poeta, «ma il popolo è questo, e questo io ricopio». E si difendeva del resto osservando che «se oscena la lingua è casto il cuore», riferendosi a un verso di Salvator Rosa. Il curatore avverte che la lettura è agevole e molto gradevole, ovviamente, ma scoprire il significato autentico dei versi è difficile, perché è difficile in realtà ricavare dai testi la visione dell'autore, scrive il curatore, tuttora soggetta a divergenti interpretazioni. Una visione che per noi, cioè per Pietro Gibellini, è quella di un cattolico aperto, non ipocrita, fortemente critico nei confronti del potere temporale e fautore di una riforma morale, di una morale non convenzionale o superficiale, ma filtrata dalla coscienza, dalla ragione e comunque intra-ecclesiam. Torniamo un po' più a nord, in Toscana, con un romanzo d'oggi, Versilia Rock City, di Fabio Genovesi, che è scrittore e autore di soggetti cinematografici e teatrali, collaboratore di riviste e giornali, ma soprattutto, come lui stesso precisa, pescatore sportivo. Il libro è pubblicato da Mondadori, 214 pagine, 17 euro, e ci porta a Forte dei Marmi. La storia si avviene l'86, quando si cominciano a conoscere i protagonisti della storia, allora bambini e ragazzi che ritroveremo adulti e talvolta delusi, ma anche fautori di un destino insolito, per esempio quello di Renato, che si inventa un lavoro veramente affascinante, quello di organizzare racconti di viaggi per chi i viaggi non si può permettere. Non è un'idea malvagia, ti è venuta leggendo il giornale. Quasi un anno fa eri appena arrivato a Milano e non avevi una lira. Soldi dai tuoi nonni non ne volevi. Eri partito da Forte dei Marmi con un biglietto di sola andata. E al bigliettaio che ti chiedeva per il ritorno avevi risposto «Non pensarci nemmeno». E invece quei giorni ci pensavi un sacco. Poi hai letto quell'articolo. Diceva che parecchia gente, siccome non si può permettere di andare in vacanza, passa le ferie chiuse in casa, nascosta, e poi fa finta di tornare da chissà dove. Provviste per 2 settimane, chiudono le tapparelle e aspettano. Poi rientrano al lavoro e fanno i grossi. L'hai letto e l'hai pensato subito che a questa gente serviva un aiuto. E serviva anche a te. Quella sera ripensavi a casa tua più che mai. A Forte dei Marmi, ai tuoi, alle cose che ci avevi lasciato e che magari, poveracce, speravano di vederti tornare. Quella sera sul divano avevi solo fame e 0 soldi. Hai aperto il giornale della metro per pensare ad altro e hai letto quell'articolo sulla gente che fa finta di andare in vacanza. 2 giorni dopo il tuo annuncio stava sullo stesso giornale. Si organizzano viaggi da sogno per chi non se li può permettere. A rileggerlo non era proprio perfetto, però sono cominciate le telefonate. E dopo un anno fai fatica a gestire i clienti. Soprattutto adesso, con le vacanze di Natale. A questa gente non gliene frega nulla di viaggiare e vedere e provare nuove esperienze. Vogliono solo incontrare i conoscenti e dire che sono stati in un posto con un nome molto esotico e sentirsi migliori di loro. Però gli mancano i soldi per partire, o hanno paura, o non sanno le lingue, e allora chiamano te, Renato Pellegrini. È così e lo sai, e non puoi farci niente. Puoi solo dirgli, bene, tra un'ora sono da voi. Intanto azzerate il volume della TV, abbassate le tapparelle e chiudetevi dentro a chiave. E buon viaggio. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un viaggio vero, quello di Geronimo Stilton, che va a Parigi e ci offre una storia da ridere, come lui stesso la definisce, nel libro Il mistero della Torre Eiffel, pubblicato da PM, 48 pagine, 9,20 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Fabio Contadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.